tanto in te. La mia notte mi verrà da te. Un sorriso ed io sorriderò. Un tuo gesto ed io piangerò. La mia forza me l'hai data tu. Ogni volta che hai creduto in me, tu mi hai dato quello che il mondo non mi ha dato mai. Il mio mondo è cominciato in te. Il mio mondo finirà con te. E se tu